Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Conto quanto punta Quinte e in quanto punta Quinte canto. Conto quanto punta Quinte e in quanto punta Quinte canto. Conto quanto punta Quinte. Punta Quinte. Sei arrivato al giorno giusto per Luigi Pardo. Sì, per fare poche polemiche, no? Per parlare del bello del calcio, come si diceva una volta. Primo giorno di scuola per te, sì. Non per gli ascoltatori. 800240024, numero verde, Franco Piantini, autore di questo programma. Roberto Scaltritti in regia. Siamo più lunghi alle 15:20 per starci dentro tutti e due. Allora, ma perché conta Quinte? Ah, quanto conta Conte? Conta Quinte. Perché c'è stata la guerra dei tweet, ormai vale tutto, no? Lo sai. Il derby del giorno dopo è stato molto più divertente di quello del giorno prima. Ieri sera secondo me c'è stato l'apice. Ieri sera fra le 21:30 e le 23 che il Toro ha scritto alla Juve, la Juve ha risposto al Toro, il Toro ha risposto. Sarà eccezionale. Esame di primo giorno di scuola, esame di matematica. 5x8. 40. Tiri in porta del Torino? 0. Esatto. Mi pare, 0. 8-0-0-24-0-0-24. 5x8 cos'era però? Niente, l'ho inventato io. Ah, l'hai inventato tu? Sì. Ah, sì, sì, beh, perché c'è stata questa discussione se tiri in porta del Torino. Esatto. 6x4? 24. Radio 24? No. Radio 24, esatto, te l'ho chiesto apposta. Numero dei segni sulla caviglia di Tevez mostrata su Twitter? Parecchi. Sì, sì, intervento da rosso. Quello, su quello non ci sono dubbi. Sì, che poi la maestra direbbe, vabbè, ma basta ragazzi. Uno dice, maestra mi ha detto scemo. E quell'altro, ah, lui mi ha detto cretino. Ah, tu dici che non avrebbe dovuto mettere le foto? No, avrei. Però le foto sono quelle ammesse perché era successo tutto il problema del gol in fuorigioco. Allora dice, sì, state polemizzando per il fuorigioco, che c'era, vi faccio vedere anche che c'era il rosso. E va questi bene. Sono i segni sulle caviglie, non lo capisco, Tevez. Va bene. Però gol in fuorigioco, Moviola in campo, Moggi, Berlusconi, poteri oscuri. Aiuto. Sei pronto, successo? No, niente, in generale. Moggi, Berlusconi, pronto. Poteri oscuri, cominciamo così. Dopo arrivano gli ascoltatori. Va bene, mi dimetto, me ne associo subito. Agenda, me ne associo subito. Non fa la curva sud. Allora, la Juve, due vittorie in fuorigioco. La mia tesi è che questi episodi alla Juve fanno più male che bene. Ma secondo me sono due partite molto diverse. Ieri la sensazione, al di là del dato numerico su zero tiri in porta del Torino, è che la Juve la stesse cominciando a portare a casa. È chiaro che poi è una tesi difficile da sostenere in un club granata, perché il tifoso del Torino dice, beh, intanto fammi stare 0-0, però quello della Juve ti dice, intanto fammi giocare 11 contro 10 per l'espulsione, sì, di Immobile. Quindi diventa abbastanza un casino dal quale non ne usciamo. Sono 6 punti pesanti della Juve, però delle due situazioni secondo me non c'è partita. Cioè, l'errore col Chievo è un errore clamoroso, sì. Quello di ieri è un errore altrettanto clamoroso, ma che arriva dopo un errore contro la Juve in una partita nella quale è successo veramente di tutto. 6x3? 18 con i punti della Roma. Ho fatto lo scientifico io, guarda che ti dico. Ragazzi, hai punti della Roma, 6x3, 18, sì. I gol della Roma, 17. 10 gol su 17 segnati dai nuovi, anche questo vuol dire qualcosa, no? Sì. Gervinho, Benatia, Liaic, vuol dire che insomma forse hanno comprato bene. Non male quel Garcia. Non male, poi mi fa ridere. Anche a me. Sai quella è la parte che mi fa più ridere? È quando gli fanno una domanda stupida e lui dice: non intendo, no, non capisco. Perché ha degli spagnolismi e poi dice venerdì. Ieri ha detto venerdì, cioè i francesi dicono tutto con l'accento e venerdì lo dicono venerdì. È come se dicessero platini. Vabbè, insomma, vale tutto. Dai. Senti, a esami di matematica lo fanno anche, poi voi li sentiamo, Mazzarri e Montella. Mazzarri e Montella. Che si amano, Si amano nuove molto. Coppie. Nuove coppie, sì. Nuove coppie. Mazzarri bravissimo nel nascondino, sai, no? Sport Olimpico nel 2020, a quanto pare. L'abbiamo detto anche nel promo. È vero. A quanto pare Sport Olimpico nel 2020. Ma non stiamo scherzando, è notizia semi-ufficiale. Chi dice cioè. Nascondino? Quelli piccoli, quelli magri che possono. Ma poi soprattutto quando li trovi. Se uno è bravo non lo trovi più. Ah, certo, dice. Però Mazzarri, c'è la consegna del Gladiatore, non si trova più bravo, un atleta. Bravo. Okay. Mazzarri però è candidato alla maglia azzurra, o no? Beh, Mazzarri alla medaglia azzurra, dici? Alla maglia azzurra, per il gioco del nascondino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ah, insomma, sì, però insomma, ieri l'Inter ha perso un'occasione, Non è stata fortunatissima. Diciamo che la fortuna che poteva esserci stata nel finale contro la Fiorentina, per fortuna si intende episodi, capacità di cogliere l'attimo, ieri non è arrivata. Poi questa cosa che praticamente l'unico giocatore importante di origine indonesiana del campionato fermi la corsa indonesiana dell'Inter è una cosa che è pazzesca. È una roba nei segni, non lo so. Qualcuno deve essersi dimenticato di avvertirlo. Che numero ha? 89 80024 0024. A proposito, ditemi cosa ne pensate del non tanto del derby, zero tiri in porta da una parte, uno dall'altra, eccetera eccetera, ma del derby del giorno dopo, perché riepiloghiamo, no? Per chi si fosse messo solo in questo momento all'ascolto. Dicevano così, no? Una volta. Ecco, ai vostri diffusori, dicevano Rai una volta. Per sì. chi si fosse messo solo in questo momento all'ascolto. Allora, dopo il derby c'è stato questo Tevez che fa vedere su Twitter i segni sulla caviglia dopo l'entrata di Immobile. Il Torino fa un comunicato, Conte che snoccioli i dati, noi possesso palla 70%, tiri in porta X, Torino tiri in porta 0, eccetera. Torino contesta e dice che il possesso palla è stato il 52%, contesta con un comunicato, lo manda su Twitter, la Juve risponde su Twitter dicendo che non sono bravi in matematica, ma possono contare il numero di tiri in porta del Torino, che è 0. In effetti non siamo bravi in matematica, ma fino a 0, come i tiri nello specchio del Torino ci arriviamo su Twitter. Ma non è finita, perché il Torino risponde. Sì. Che risponde, adesso non lo so, devo citare a memoria. Risponde che coraggio, perché fino a 31 ops 29 ci siete arrivati. Questa è fredda cronaca, perché insomma. Allora, avremo anche grandi ospiti oggi, eh? Avremo anche grandi ospiti, grandissimi ospiti. Sempre ci rispondono al telefono, perché la radiofonia è bellissima per questo. Sai, infatti noi mica siamo feste. Teoricamente non abbiamo detto. Diciamo che potrebbero essere dei chi, un paio di chi. Chi sono? Chi, capito? Chi? Allora, chi? Attenti a chi con la maiuscola. Chi saranno i nostri ospiti? Vediamo se li indovinate. Vincete, niente. Uno e uno sono, sì, perché noi proprio siamo come la Democrazia Cristiana degli anni proprio d'oro. Proprio siamo, qual era la corrente più democristiana della DC? Non lo so, io sono... Comunque siamo i più democristiani, quindi siamo uno e uno. Democristiano sarai tu. 80024. Vabbè, adesso era un modo 0, di dire. 0, gente, comincia malissimo qui a Radio 24, 14 e 14, tutti convocati. 0024 800 24 0024. Ci sentiamo dopo il traffico. Allora, chi saranno i nostri ospiti? Chi saranno i nostri ospiti oggi? Non vincete niente. A dopo. No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. È un detto francese. Tutti convocati. Questa cosa del traffico mi esalta, lo sai, Nogarò le Rocca, l'ho sentita tante volte da ascoltatore, mi gasa tantissimo. Ti piace il traffico? Mi piace il traffico. Cruciani non lo vuole più, non so. Lo so, anche la borsa non è male, però mi sa che oggi non va benissimo, meglio il traffico. Diamo un'informazione di servizio, però alle 15.15 non avremo il traffico, per la gioia di Cruciani. Sì, vi daremo noi le notizie direttamente. Faremo noi tipo Pierluigi Pardo farà la voce del signore dell'omino del traffico sulla A22 A22 del Brennero. Sono scarso, devo prepararmi. Sì, matematica invece sei preparatissimo. Posso dirti che al di là dei tweet e dei messaggi tra Juventus e Torino, io tifo Napoli a Roma per lo scudetto, perché io sono come Ibrahimovic, bacio un sacco di magliette. No? Sì, ogni anno ne bacio qualcuna. Beh, certo. E poi sì, perché no? Che ti frega? Napoli e Torino per lo scudetto. Mi piacerebbe tantissimo vedere un duello tra queste due. Guarda un po'. Tra Napoli e Juve? No, Napoli e Roma. Scusate. Ah, Napoli e Roma. Roma. Insomma, dal punto di vista geopolitico sarebbe interessante, divertente, insomma, no? Perché sono comunque due club che non vincono tanti anni. Credo che la Juve, per me la Juve rimane la favorita. Il Napoli rimane la primissima alternativa. Però la Roma sta facendo cose impressionanti. Il simbolo del Milan invece, Milan, che tu hai commentato per noi sabato sera, hai fatto la telecronaca di quella meravigliosa partita di calcio. Ma io mi sono divertito, perché devi sapere che per un telecronista la partita è bella se è viva fino al 90esimo, quindi se può succedere qualcosa. Poi certo, dal punto di vista estetico abbiamo visto cose migliori, ecco. Però il Milan secondo me sta uscendo lentamente dalla convalescenza, comunque sta cominciando a fare punti in partite in cui gioca male, quindi questo potrebbe essere un segnale incoraggiante per il futuro quando rientreranno i big. il simbolo, sì, big, il simbolo del Milan intanto è Bielsa. Sì. Un giocatore che non dico tanto, ma 3 anni fa non avrebbe giocato neanche il mercoledì a Busto Arsizio. Sì, dopo che ho visto il titolo "O la Birsa o la vita" stamattina su un sito, devo dire che il mio rapporto con Birsa è peggiorato improvvisamente. No, beh, in realtà sta facendo molto bene. Era un buon giocatore. Guarda, se vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno, magari qualche tifoso del Milan dirà: sei il migliore Birsa, come siamo messi, no? Sì. Però è anche vero che, insomma, trovare delle soluzioni da giocatori inaspettati in momenti difficili è anche un segno comunque positivo. Poi Birsa è un buon giocatore. È chiaro che, insomma, il Milan è abituato. Guarda, l'altro giorno è successa una cosa: a 2-3 minuti dalla fine, il Milan era avanti 1-0. C'è stato un retropassaggio a Mexes. E il pubblico che fischiava, perché, evidentemente, insomma, il pubblico del Milan non è abituato nella storia, per quello che ha ottenuto in questi anni, a vedere il retropassaggio quasi al portiere sull'1-0 per difendere il risultato al 90esimo. Però questi sono, no, sono momenti complicati nei quali conta solo il risultato per il Milan. Luca da Brescia, eccolo qua, il primo. 800240024 insieme, io per Luigi Pardo. Ciao, fino Luca. Alle 15:20. Come va? Grandi, grandi, grande Carlo, grande per Luigi, grazie di avermi convocato anche oggi. Ma tu non sei di Brescia, però? No, io sono toscano, sono via Regina come Lippi, sì. Però mi tocca abitare qua, mettiamola così. Ecco, messaggio di pacificazione nazionale, prego. Allora, io volevo esprimere un pensiero sul derby, che bene o male ha già espresso tutto Pierluigi, perché se togliamo al netto degli episodi, che poi contano, però al netto degli episodi la Juve ha cercato di giocare a pallone e stava portandosi a casa una partita. Insomma, abbiamo visto quali sono state le occasioni durante la partita, il Toro non ne abbiamo viste, abbiamo visto solo occasioni da parte della Juve. La seconda considerazione invece è sul campionato delle medio-piccole, della parte destra della classifica. Quest'anno vedo un impoverimento generale di tutto quello che una volta erano le squadre che ogni domenica davano almeno 2 sorprese: il Bologna, l'Atalanta, il Parma. Beh, ma Luca, però c'è il Sassuolo che ha pareggiato a Napoli 3 giorni fa, eh? No. Diciamo che è il Napoli che si è pareggiato da solo col Sassuolo. Vabbè, ho capito, Però sì, però è vero, nel senso che se guardiamo statisticamente, insomma, una squadra a 18 a punteggio pieno dopo 6 giornate, 2 squadre a 16, l'Inter a 14, la Juve che praticamente gli unici 2 punti che ha perso li ha persi in uno scontro diretto contro l'Inter. Insomma, la sensazione è che la forbice, come dicono quelli che fanno statistica, ma si sia allargata. Parisoni, ecco. Sì, fra ricchi e poveri del calcio italiano in questo momento sembra più larga, mi sembra. Sì, anche mi sembra se vero. Sempre mercoledì sera il Bologna destinato una vittoria con il Milan, 89esimo, erano 2-1 e non faceva una piega. Però è l'eccezione, secondo me. E siamo già a 2, Sassuolo e Bologna in una giornata sola, no? Dimmi. Ricordiamoci di fine agosto, Carlo, che parlavamo che sembrava che fosse un campionato solo per grandi, ma poi col settembre tutto si sarebbe risolto. Io ho visto se anche il trend di questo settembre, vedo una facilità delle grandi di abbattere le piccole che non vedevo veramente ci tanti stiamo anni. Ci stiamo un po' spagnoleggiando? Diventeremo una farsa come il campionato spagnolo? Il tiki-taka che incombe, scusa, ho fatto pubblicità, promozione al programma, scusate, chiedo perdono. Chi c'è stasera con te? Stasera c'è di tutto di più, c'è Massimo Ghini, c'è Mughini, c'è Melissa Satta, ci sono i collegamenti con Amsterdam e con Londra per Milan e Napoli, c'è tutto il post Torino-Juve, c'è Dalai, c'è Padovan, c'è Rachele Marchetti, la moglie di Marchetti, insomma ci sono di tutto di più. Poi c'è una sorpresa di Totti, c'è una sorpresa di Biagi, Valentino Rossi, Meda, no, una roba esagerata. Guarda, un programma, ti dico la verità, quasi c'è un principio, quasi non lo vorrei fare, però mi sento all'altezza, c'ho l'ansia della prestazione per quanto... Dopo questo mi dai dei soldi o mi dai il numero della Satta? Deve di tutto. Vabbè, vediamo, insomma, vediamo. Okay. Bisogna meritarsene. 800240024. Luca, sei ancora lì? No, volevo fargli dire una cosa che scrive Marco e che io sono convinto oggi tutti gli juventini stiano pensando, e che è questo: scrive Marco 349-238-6666, io sono gobbo e godo, eh? Ma ragazzi, ma io, allora posso dire una cosa, in tutto questo i tifosi hanno sempre ragione. C'è un tifoso? No. Sì. Chi? Mi hai guardato guardare minacciose. Chi c'è? Chi? Come chi c'è? Pronto? Chi? Chiambretti, buonasera, buongiorno. Buonasera, come buonasera. Va? Non sono gobbo, tanto per cominciare, però sono gobbo dal fuorigioco, quello sì, veramente ecco, molto gobbo. Ecco. Ma del derby dopo cosa ne pensi? È stato molto, molto divertente, eh? Di la verità, i tweet del Torino l'hai scritti tu, hai fatto il ghostwriter? Ma io ho scritto qualcosetta, ma diciamo che sono uno di quelli delusi dal derby, perché... è stato uno spettacolo sicuramente sotto ogni profilo deludente, e anche in altre epoche, quando il Torino era indubbiamente più debole,

Letta. Fra allora, poco c'è un altro chi? C'è un altro chi di quell'altra parte. Giusto? Ma non ha indovinato nessuno, eh? No, incredibile. Vabbè che incredibile. Non si vince niente. No. 800 24 0024, ma non si vince nemmeno niente. Il numero della satta che salutiamo. Ecco, sì. Dopo me lo dai. No, no, c'è... no, ma non posso. Allora non posso, cioè, te lo do dopo, ma non posso dirlo in radio. Senti no? questa, ecco. Luca da Vigevano. Cacchio, hanno cambiato tutto il palinsesto. Speravo vi avessero, o ti avessero, credo, rivolto a me, spedito a trasmettere in Colombia. Sarà per la prossima. Io vado a trasmettere in Colombia. No, no, ma ragione. Perfettamente ragione. Cerco Cattazio, ha ragione l'ascoltatore, ma è infatti una vergogna, assolutamente. Ma noi siamo in Colombia, tra l'altro, siamo nella postazione colombiana. 800 24 0024, io e Pierluigi Pardo vi aspettiamo qui. Tutti convocati. Dunque, Pierluigi Pardo, eccoci che torniamo. Ma eccoci. Aspetta, aspetta che facciamo suonare. Quella di prima. Canto, grande Daniele Silvestri, grande qualità musicale, personalità. Poi c'è Gigi Telesforo già da oggi? Sì, arriva dopo di noi. Sarà pensa come sta messo, poverino. Esatto. Poverino. Palinsesto, diciamo, penalizzante. Per lui. Certo. C'è Luca che dice che mi lascia la satta per Irma d'Alessandro. Vabbè. Ocio che gente, ocio che Boateng ti fa nero. aspetta il numero magari dopo, Sì, no, glielo dato. Senti Pierluigi Pardo, anche Ibra l'ha toccata piano, Sì. Su Guardiola. Delicatissimo. Guardiola senza palle. Io una Ferrari trattato da Fiat. Idolo Ibra. Ecco, eh? C'è mio il idolo. Signor Marchionne al telefono, tra l'altro pronto a intervenire. Ma insomma, il rapporto Ibra, c'è stata l'autobiografia, sì. Ibra lo odia, cioè, diciamo le cose come stanno. Si è sentito trattato come numero due, perché il numero uno già c'era e probabilmente in quel momento Ibra non era pronto per essere trattato. Ibra entra nella galleria dei miei idoli. Poi Ibra è un ribelle, il Barcellona, insomma, è una squadra di... Li vogliono tutti finti soldatini, perché poi Barcellona, che non è in cima alla lista delle mie preferenze dal punto di vista della simpatia, perché lì, come sai, li preferisco brutti, sporchi e cattivi. Loro erano, perché adesso stanno un po' cambiando pelle con Martino, sì, un po' meno tiki taka, un po' meno possesso palla, sì. Però insomma, no, la squadra che ha fatto epoca, però sono d'accordo con te che sicuramente un po' sfracicato, sì, basta con i cabassisi, come direbbe Mondalbano, belli pettinati alti e sì, eleganti, sì, e sportivi ad ogni costo, sì, perché sì, poi non è vero. Ricordiamo la vecchia polemica di Mourinho, ma che sono dei cascatori. Non aveva tutti i torti, secondo me. Non aveva tutti i torti. Il Barcellona, come tutte le grandi squadre che fanno epoca, poi a un certo punto possono anche incassare, no? Una sorta di favore universale. Questo c'è stato. C'era un momento in cui il calcio sembrava solo il Barcellona, in qualche altro modo no. Fra l'altro è entrato Matteo Caccia. Io sono un ascoltatore di Radio 24 prima di essere qui, quindi sono gasato, vedo Matteo Caccia, già mi emoziono. Dunque, mi ricordo, Caccia... voi siete qui, Matteo Caccia. Voi, lo conosco bene. Dopo, sì. Interista, sì, marcio. Invece abbiamo un chi in arrivo? Un chi... In arrivo, intanto abbiamo un Fra da Avellino. Sentiamo Fra Francesco, da buongiorno. Ciao Carlo, ciao Piero. Ciao. Sono Francesco da Avellino. Salve. Senti, io volevo soltanto chiederti una notizia, diciamo, sulla tempistica. Il signor Conte ha detto che praticamente dopo la partita di Verona ha apprezzato il gesto di Campedelli e dell'allenatore Sannino, che insomma hanno rincuorato il quarto uomo per l'erroraccio. E lui sarebbe stato ben contento insieme ai colleghi poi di ripresentarsi quando sarà la volta sua per fare lo stesso gesto. Ecco, io mi chiedo, capiterà questo momento anche per Conte oppure no? Sarei tentato di rispondere di no. Ma invece magari capiterà. Io credo, io onestamente non ci sto adesso a entrare a metà settembre, fine settembre, già con la logica complottista. Non ce la faccio, non mi appartiene. Non penso che abbiamo visto per ora una tale quantità di episodi da poter pensare qualcosa del genere. È chiaro, e questo è vero, che sicuramente è più facile essere pompieri quando le cose vanno molto bene che quando sei arrabbiato. Ma questo riguarda Conte, riguarda qualsiasi allenatore, no? Finché sì, le cose, c'è un modo di dire molto troppo volgare romano che non posso. Però insomma, il concetto è quello, che quando le cose ti vanno bene sei chiaramente portato a essere ottimista e a pensare che sono soltanto errori. Certo, quando le cose vanno male, magari invece sei lì che rincorri tutti. Ma no, ma poi Conte, un po' come Ibrahimovic, vive sull'agonismo esasperato. Conte ha fatto due anni da trasformando una squadra forte in fortissima, quindi questo non si discute. Poi trasformando una squadra perdente in vincente. Che anche lui abbia avuto in certe circostanze la cosa di protestare in maniera molto forte, questa insomma è storia, ma non mi sembra l'unico, ecco, mi sembra che

diciamo un po' più realistica sarà alla fine della seconda sosta dopo Juve e Napoli, che saranno già 10 partite. Secondo me già lì un primo step si può fare, però prima diventa davvero difficile. Senti, hai visto la caviglia di Tevez? Hai massaggiato? Sì, come sta? Ci abbiamo un po' messo anche del ghiaccio noi per farla sgonfiare. È lavoro d'equipe, È troppo importante che sia in campo. Ma che giocatore è? Perché insomma all'inizio dell'anno si diceva che insomma era quello che doveva fare la differenza a livello internazionale. A me sembra, un fenomeno, una roba che sta facendo la differenza, la sta facendo ogni partita, con il suo atteggiamento e con le sue giocate. Insomma, è un giocatore che ci ha dato veramente una scossa incredibile. Io non so cosa vedete voi da fuori, come percepite da fuori, ma molto più del semplice tiro, del semplice assist o dei gol che sta facendo, perché poi può anche non segnare come ieri, ma è un giocatore che obiettivamente ha qualcosa in più degli altri. Certo, Giorgio, che è uno che trovarselo di fronte in allenamento non è facile, ma tu e lui non vi siete ancora menati in allenamento, no? No, ancora no. Gente, è un incendiario, se non è in allenamento. Su quello, guarda, io devo essere sincero, ce ne avevano parlato tanto come una testa calda, diciamo, come una persona molto... particolare da tenere. Io devo ammettere che per ora ci ha dato tutt'altra impressione, ha sempre lavorato senza dire una parola, ha sempre sacrificato in allenamento, in partita, e si è sempre comportato con grande rispetto verso tutti, quindi io spero che sarà sempre così, non avere problemi in nessun modo, né io né tutta la Juventus con Carlos, ma sicuramente quello che ci raccontavano era un Carlos diverso da quello che per ora si è visto. Grazie Chiello, Chiello. Bocca al lupo, Crepi, voi a te, saluti a Chiello, grande uomo, grande uomo. Tutti, buona giornata. Scatenato. Tutti convocati. Dunque, torniamo agli esami di matematica. C'è Flavio da Torino, Antonella da Verona già in linea. Ovviamente parlerà prima Antonella di Flavio, per ben noti motivi. 800 24 00 24. Torniamo all'esame di matematica. Immagino uno stress. Vai, forza. 7 per 4. Vabbè, 28. 28. Sentiamo Mazzarri. C'entra. Parlare di Mazzarri, lo conosco talmente tanto bene che insomma non è che lo parli volentieri. E lui è molto bravo a tessere i complimenti dell'avversario prima della partita, dopo fa molta molta fatica, e questo credo sia un suo limite, se mi posso permettere. Era nervoso e covava, non ha sentito quello che ho detto a fine gara. Ho detto che la Fiorentina secondo me è una delle candidate allo scudetto, quindi gli ho fatto i complimenti proprio alla fine della partita. A differenza di lui non l'ho citato prima nella conferenza, invece lui parla di altri e poi parla senza essere sicuro di quello che dice. Poi in matematica io non ero bravissimo, nemmeno scarso, ma regola l'ho imparata, però, che non è un'opinione. Questo mi auguro, che almeno questo il Mazzarri l'abbia imparato, insomma, che la matematica non è un'opinione. Come dice lui, la matematica è proprio un'opinione, non è un'opinione, e se vuole essere preciso, l'Inter non è al secondo posto nella classifica in questo momento degli ingaggi, ma è al terzo, quindi ha sbagliato. Poi sarebbe da dirgli altre cose, che l'Inter nel giro di 2 anni da 190 milioni è 80 milioni, che c'è squadre che la superano già di tanto, che è un processo inverso alle squadre che non hanno vinto nulla e cercano di adeguarsi all'alta classifica aumentando gli ingaggi. Capito, Piero Gipardo, la matematica c'entra, ma è la settimana della domani, matematica. Domani chiamiamo la maestra di Del Piero, che è una nostra ascoltatrice e amica. Grande. Chiamiamo Del Piero poi una volta. Sì. Ma com'è il fuso? 9 ore? Ma com'è più divertente la maestra? Ma fidati, ma capito, ascolta. Scusate, ma anche dietro, vero, gente dietro al vetro è impazzita. Grande affetto per la maestra, però. Ti chiamo Del Piero, d'accordo, sei contento. Io intanto parlo con Antonella, tu fai quello che vuoi. Sì, Antonella buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Tutti bene? Bene, sì, bene, a casa, bene. Tutto a posto, c'ho una perdita al rubinetto, però tutto bene. Vabbè, cose da poco, dai. Dimmi. Niente, io sono emozionato, sarà una banalità, ve lo dicono tutti, però dai. Ma per cosa, scusa? Parlare con voi. No, sono io che sono emozionato. No, no, guarda, è tutto rosso. Lo capiamo. Gente è un sex symbol, eh. Per chi l'avesse visto soltanto in radio, Gente è veramente un sex symbol. Grazie, siamo pari così. È molto strano essere al telefono e non sentirvi per radio direttamente. Ecco. Va bene, dai. Vabbè, detto questo, adesso possiamo procedere, dopo... perché è bello, ma si è fatta una certa. Quindi dicevamo... Niente, io vi ho chiamato per parlare di questa Roma, se qualcuno se la fila adesso finalmente, perché io sono già a essere romanista a Verona. È dura, è un lavorone, sì, immagino. È un'impresa. Prima dell'inizio del campionato non era fuori dalle 10 quasi. No, durante le prime no. 3-4 partite, appena appena, ma si parlava sempre delle solite. Adesso, dopo 6 vittorie consecutive, vediamo se i soliti noti cominciano a parlarne. Io me la filo, noi siamo i soliti ignoti. Io, ma... credo che alla Roma faccia anche molto bene che se ne parli poco, nel senso che Garcia o Garcia ha fatto dei fari spenti per ora, una strategia vincente. Dopo ieri ha messo sera, la Chiesa al centro del paese, quello e poi aspetto le luci, esatto. No? Dopo ieri sera è difficile non parlarne, perché ieri innanzitutto c'è una cosa magari sottile, ma insomma, la Roma ha giocato per ultima e ha giocato dopo la vittoria della Juve, dopo la vittoria del Napoli, quindi con un carico di pressioni importanti. E l'autorità con la quale ha affrontato la partita ieri sera sarà incredibile. Sai, quindi... qual è la mia sensazione, però? Che loro siano già molto avanti dal punto di vista della condizione fisica. L'hanno chiesto a Garcia ieri sera, ma dal punto di vista fisico, come siete messi? Fra l'altro, Garcia ha detto: questa l'ho capita, e ha detto: beh, siamo avanti. Cioè, assolutamente, che... no, due cose volanti. Uno è che Garcia di solito partiva lento, però gli hanno fatto capire che dopo le ultime due annate a Roma non si poteva partire lenti, e quindi ha cambiato i metodi di allenamento. Sicuramente. La seconda è la dichiarazione in Superflash di De Rossi di ieri. Superflash è l'intervista che viene fatta ancora in campo col fiatone, e De Rossi ha detto, secondo me, una cosa molto importante, cioè che quest'anno non si corre a vuoto. L'anno scorso, bravissimo, tante volte la Roma correva, ma correva come dei pazzi disperati con Zeman per 90 minuti senza mai abbassare il ritmo, senza mai controllare la partita. Invece quest'anno con Garcia è una squadra che aspetta, capisce quando è il momento giusto per colpire, sa alzare o abbassare il ritmo, ma che poi è la caratteristica delle grandi soprattutto, squadre. Soprattutto per la prima volta dopo le ultime 3 stagioni riesce ad esprimere quasi integralmente il suo potenziale, che è altissimo. Però dato che Garcia o Garcia è già un nostro idolo, lo sentiamo. Dobbiamo tornare in Europa, forse l'obiettivo può essere di fare il sprint finale con gli altri favoriti, che sono la Juve, il Napoli, l'Inter e gli altri, sicuro. Flavio da Torino. Sì, ciao, buongiorno, ciao. A tutti. Buongiorno Flavio. Tifoso juventino, sto vedendo la Juve quest'anno, mi fa un po' piangere, ma comunque sento il tono un po' triste. Spero vabbè che è lunedì e piove, sento il tono un po' triste. No, ma come, sento il tono, ma come triste. Piange, dai, 16 punti, 6 partite, ma non è questo. Io guardo il gioco, non guardo i punti. Se io vedevo la Juve giocare un po' di anni fa, cioè 2 anni fa, l'anno scorso erano 1000 volte la grinta che hanno adesso, tant'è che quando matematicamente abbiamo vinto lo scudetto, le 4 partite rimanenti non hanno più messo la grinta, le abbiamo perse o le abbiamo pareggiate, per cui vuol dire che gli manca la grinta. Ma io spero che sia una cosa che stiano studiando, perché poi... Invece ho telefonato solo perché così ieri sera ho sentito le dichiarazioni di Ventura che diceva: ero contento perché abbiamo giocato bene, perché non li abbiamo fatti giocare. Se questo è sport, va bene così. Sì, è sport. No, Flavio, ma è sport se una squadra come il Torino gioca contro una squadra. Sì, io questo onestamente non mi sento di... Cioè, che il Torino non abbia mai tirato in porta è un fatto oggettivo. Sì. Ma che il Torino, che come diceva Chiambretti, non ha Marchisio, Pirlo e Pogba in mezzo al campo, ma con tutto rispetto Bascia e Vives, possa pensare di fare una partita di trincea, questo ci sta. E che il tifoso del Torino oggi possa pensare che se non ci fosse stato quel gol, magari riusciva a portare a casa un pareggio, o magari riusciva a trovare un episodio, questo ci sta. Poi sicuramente, insomma, i numeri della partita sono evidenti: il Toro non ha mai tirato in porta, la Juve ha cercato di più di fare la partita. Mi sembra che all'inizio del secondo tempo la Juve stesse prendendo in mano la partita, sinceramente, quando poi c'è stato l'episodio del gol. Sì, questo è evidente. Il Torino non può giocare in una maniera differente contro la Juventus, dunque. Però ci, per esempio, col Milan che probabilmente che in questo momento non è la Juve, appunto, però il Torino aveva giocato una partita di grande intensità. Quindi poi vedi che alla fine c'era delusione granata telefonata che ci diceva Chiambretti di una squadra che ieri si è un po' bloccata dal punto di vista proprio della spinta, e magari c'è anche la delusione bianconera di questo tifoso che non ha visto ancora i picchi. Però una partita bellissima secondo me la Juve fin qui l'ha fatta, ed è stata con la Lazio. Juve-Lazio sì. È stata veramente una partita, ma è partita molto forte la Juventus comunque all'inizio della stagione con la Lazio, e comunque quando vinci, non dimenticare la Supercoppa, insomma, primo appuntamento dentro fuori per alzare un trofeo, la Juventus l'ha giocata in quella maniera, quindi non sarei così triste. Vabbè che lunedì piove e che è arrivato anche Pierluigi Pardo, ma non mi sembra che di essere così tristi. No, appunto. Che dici? Ma è la tristezza, no, dai. A dopo. GR. GR. Ma poi torniamo, Tutti convocati. Dunque per Luigi Pardo arrivano le minacce. Daniele da Brescia che dice: se non leggete il precedente messaggio non cambiate registro. Qual è? Qual è? Ma non lo so, non so qual è, me lo sono perso, sono talmente tanti. Però io poi non li vedo, io sono, ma te li dico io. Sono in una dependance, se non sto per un quarto chilometro della Pontina. Non leggete il messaggio, per te sopravviveremo. Ma no, ma invece leggiamo. No, ma non so qual è, giuro. Okay. Vabbè, rimandalo, che scusa. Rimandalo. 800240024, Renato da Brescia, Annunzio, provincia di Venezia. A Gennaro Napoli, state lì un attimo, perché non è che siamo qua a parlare solo di calcio, a pettinare le bambole. Ieri c'è stato anche un altro Granata. Ah, Bruto! Bravo, ha perso il derby e anche la finale degli europei contro la Russia, però grandissima l'Italia della pallavolo, Berruto. Coach, arriva un argento, un po' d'amarezza chiaramente per come è andata la finale, perché per qualche istante ci abbiamo creduto, però è una medaglia davvero pesante per la storia di questa squadra, no? Sì, purtroppo le medaglie d'argento sono sempre un po' più tristi perché arrivano da una sconfitta. In realtà dobbiamo essere bravi a analizzare un grande risultato di un grande torneo che non solo ci ha messo di fronte a tante difficoltà, agli infortuni, a tante cose che conoscete, ma che ci ha permesso anche di scoprire una nuova generazione di atleti e dei talenti che, come si è detto ripetutamente, qualcuno di loro ancora non ha neanche esordito in Serie 1 ed è stato protagonista di questo europeo e ha portato in Italia un argento che conferma il risultato di Vienna, ma che secondo me vale anche di più, perché davvero è un risultato che è importante per il presente, ma che è anche uno sguardo sul futuro che secondo me potrebbe essere molto molto importante. Questo era Berruto, Granata, allenatore della nazionale di pallavolo, al microfono di Dario Ricci. Renato da Brescia invece ha convocato. Pronto, Renato? Sì, ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno alla bella coppia di tutti i convocati, complimenti. Grazie. E allora, il mio intervento, sono concittadino di Pirlo, sì. Era l'argomento Juventus e Pirlo. E anche di Balotelli, è concittadino anche di Balotelli. Sì, però già ne parlano troppo del Super Mario, per cui questa volta lo lascio in pace. No, cioè per quanto riguarda Pirlo, effettivamente i protagonisti del nostro calcio dovrebbero dare un certo esempio. Sì. Allora, vedere un campione come lui che presta l'immagine ad una società come la Sisal per le scommesse, sinceramente mi lascia molto perplesso, in questo periodo soprattutto. Quindi l'esempio è veramente pessimo. Sì, Renato, va bene, ma a voler essere molto maliziosi, però il Milan ha portato, come lei sa, uno sponsor sulla maglia di quel tipo. Le scommesse sono uno dei principali, le società che ha sponsorizzato Serie B, campionato di Win c'era, no? Quindi non voglio dire che non sia un ragionamento, cioè, se ne può parlare, però voglio dire, non è solo Pirlo, cioè mi pare che ci siano ormai fra testimonial sportivi, Boris Becker mi pare che anzi sicuramente ha fatto il testimonial per lungo tempo, calciatori, televisioni che ospitano tutte praticamente all'interno un box. No, insomma, qui è il solito discorso, bisognerebbe capire se è giusto, se non è giusto. Poi c'è il concetto del responsabilmente, no? Come sulle sigarette c'è scritto fuma responsabilmente, bevi ma responsabilmente, gioca responsabilmente. Sappiamo che ormai i soldi sono lì, no? Girano molti soldi, e quindi lo trovo magari eticamente discutibile, come direbbe Galliani, ma comunque abbastanza normale che, essendo in quell'ambito, Le scommesse c'erano già prima, no? Ed erano clandestine e governate da non si sa bene chi. Adesso almeno sono legali, pagano le tasse ai concessionari, credo, no? Sì. Non sono un esperto in materia, per cui poi insomma si può discutere sul fatto e si può consigliare ovviamente di non rovinarsi la vita per le scommesse. Questo mi pare abbastanza evidente. Ecco. Però non stiamo parlando di nulla di illecito, di illegale e neanche di immorale, secondo me. Dunque, ieri c'è stato il mondiale di ciclismo a Firenze. Che bella, posso dire? Io ho visto, non ho visto la gara, ma ho visto dei passaggi, ma una roba, spettacolo. Senti? Si lotta per la medaglia d'oro, per la maglia iridata con Alberto Di Costa che è andato a saltare Purito Rodriguez che prova a rimanere sprint tra i due, poi sul traguardo di Firenze è Rui Costa. Alberto Rui Costa. Rui Costa è il nuovo campione del mondo. Ma a proposito di scommesse, chi può vincere il mondiale a Firenze? Scusa, ma a questo punto posso fare un momento di radio? Proviamo a fare quella telefonata, magari ci rispondo. Dove gioca Benfica? Gioca in Champions o domani o dopodomani. Beh, insomma, Rui Costa che vince a Firenze fa abbastanza effetto, no? Vabbè, normale, mi sembra clamoroso. Era da scommettere, a proposito di scommesse, era da scommettere ovviamente... a metterci tanti soldi su una vittoria di Rui Costa, portoghese a Firenze. Nunzio, provincia di Venezia, eccoci. Sì, buongiorno. Innanzitutto vi faccio i complimenti. Grazie. Perché siete una coppia bella sortita, dai, bella ironica, dai, come si dice. Grazie. Ci vuole sempre un po' di ironia. Sì, nella vita. Niente, io volevo parlare anche di Udinese. Mi sembra, al di là che il rigore per l'Udinese non c'era, però mi sembra un po' surreale che l'arbitro ci abbia messo 3-4 minuti per decidere se dopo è stato richiamato le guardaline e tutto, e Di Natale stava là per calciare il rigore, come uno se gli danno la torta da mangiare, quando sta per mangiare gli la tolgono, cioè mi sembra un po' surreale. Ma ha ragione lei, cioè la parola giusta è surreale, potrei aggiungere anche ridicolo. Poi potrei aggiungere un'ulteriore domanda, ma alla base di quella decisione postdatata dell'arbitro ci sarà stata una sbirciatina alla televisione? Secondo me sì. E quindi poi non voglio parlare di Moviola in campo, per carità. Il primo fu Collina, no? In un'Inter-Juve che cambiò, tolse un calcio di rigore, andò a stringere la mano. Ma insomma, io penso che certamente non è bello quei tre minuti d'attesa in cui nessuno, da telecronista, può immaginare quanto sia piacevole avere non capirci nulla di quello che sta succedendo. Però alla fine è meglio quello che un errore. Meglio quello che un errore, sempre che si rimanga all'interno dei regolamenti, perché guardare la televisione non è previsto dal regolamento, e questo lo sappiamo bene. Ho provato a chiamare Rui Costa ma non risponde, gioca mercoledì a Parigi con il Benfica, pazienza. Rimaniamo su due ruote, perché ieri c'è stata anche in Aragona la vittoria di Marquez. Poi, a proposito di magnifici perdenti, uno di questi nello sport mondiale è Daniel Pedrosa. Mamma mia, ha fatto la bua, mi ha spinto Marquez, che cattivo che è. Ma sei cattivissimo. Ma Pedrosa è nato per perdere. Marquez, il braccio ha toccato un po' la ruota, ma non lo so, perché è strano, no? Perché è stato un leggero, no? Non è stato niente aggressivo, perché io andavo a lungo. È preferito andare lungo prima di andare a dentro e provocare un po' una situazione un po' di più rischio. Una cosa molto strana. Capito? Molto estranea. Una situazione molto estranea. Marquez, 20 anni, primo anno, vince il mondiale. Pedrosa è l'unico, tu mi dici sono cattivo, ma è l'unico a guidare quella moto, l'Honda HRC, da un'infinità di anni, e non vince il mondiale. Ce l'aveva fatta perfino Alex Crivier, che tu non ti ricordi. Grandissimo Crivier. Ma io mi sono laureato con una tesi su Crivier. Ma chi è Crivier? Se mi sente Meda, mi diserete. Salutiamo Guido Meda. Gennaro Napoli, buongiorno. Salve. Dica. Senta. Sì. Io volevo dire, per quanto riguarda la questione della chiusura della curva del Milan. Sì. Allora, io penso che, vista l'ampia solidarietà che hanno raccolto i tifosi del Milan, che hanno fatto quei cori beceri e infami contro i tifosi del Napoli, contro Napoli, diciamo, in generale, credo che bisognerebbe chiudere lo stadio. E visto che anche la società ha fatto subito ricorso praticamente sdoganando questo tipo di comportamenti sugli spalti, penso che ci dovrebbero essere anche dei punti di penalizzazione per la società. Ma questo accadrà. Ma qui c'è un regolamento. C'è un regolamento che, fra l'altro, quest'anno è teoricamente durissimo, perché non ci sono più lesimenti. Sì, così si chiamano, sì, l'anno si scorso. Per cui così, però... quest'anno primo cartellino giallo è la chiusura del settore, secondo cartellino è la chiusura dello stadio, poi scattano gli 0-3 le penalizzazioni. Io credo, al di là di tutto, che sarebbe bello se, visto che sono cambiate le regole, visto che se ne parla molto, al di là di tutto, siccome io non mi rassegno, non penso che la gente sia razzista, penso sia un becero malcostume che si è sedimentato nel tempo, per d'altra cui parte, Milano in fiamme, coro, Napoli noi è... non siamo napoletani, è vecchio di molti anni. Sì, sì, ma sai, adesso si è, giustamente lo si vuole punire, no, è allora, elegante, eccetera. Scusa, però fammi fare un attimo di chiarezza, attento. Perché anche su questo, noi non siamo napoletani, mi risulta che non sia punibile, perché non mi sono informato, poi ieri c'era Capuano, che è un luminare della materia, perché chiaramente non c'è niente di offensivo di per sé. Chiaramente quando ci sono cose offensive invece scattano i provvedimenti. Io ripeto, forse io sono un romantico sentimentale, giro l'Italia, vedo posti bellissimi, cioè io tutta questa guerra civile fra italiani faccio fatica a vederla, a immaginarla. Penso che sia un malcostume che si è sedimentato nel tempo, che poi nello stadio trova uno sfogo. Allora sono cambiate le norme, io sarei proprio per provare a fare un passo avanti, perché poi non è che i milanesi non vadano in vacanza nel sud, no, o quelli di Napoli non vadano a sciare nel nord, cioè, e quindi insomma questo poi vale molto chiaramente per Napoli, ma vale un po' per tutta l'Italia, perché Milano in fiamme è un coro che abbiamo sentito mille volte, sì. No? Su Napoli ovviamente c'è un accanimento un po'. Io te l'ho detto, la mia paura è che queste normative vengano utilizzate in maniera molto strumentale da parte di certe frange della tifoseria, che poi sono quelle che trattano che hanno un'arma società. Di ricatto, questo. Bravo. Anche va detto. Il mio timore è quello, cioè nel senso, non ci dai adesso, ci dai 500 biglietti in più che noi poi venderemo e faremo dei soldi, altrimenti noi ti facciamo chiudere alla curva B lo stadio, C punti di penalizzazione, perché sai che in Italia si ragiona in questa maniera, quindi io ho paura che questo possa diventare nostro metodo di ricatto. Con queste norme è possibile, tecnicamente è possibile, perché prima volta cartellino giallo, chiusura del settore, chiusura dello stadio, poi scattano le penalizzazioni per la squadra, insomma. Io però penso che dal punto di vista culturale dovremmo cercare di trasformare questo inasprimento delle norme in un'occasione per dare risalto e per provare a fare tutti un passo avanti, perché veramente non c'è nessun senso dietro a questi cori. L'Italia è piena di ottimi odori, da una parte all'altra, no? Odori, sapori, bellezza, è una roba pazzesca, o meno che uno poi non voglia vivere a Dnipropetrovsk o o in altri, perché è da posto rispettabile, viviamo in un posto meraviglioso con tutti i casini che abbiamo. Andiamo avanti, prossimo, chi è? Chi è? Adesso dobbiamo andare via. Come dobbiamo andare via? È già finita? Sì, quasi ora di chiudere. Ma avevi detto 16:20, ma avevi detto 16:20. 15:20. Tu tanto domani non ci sei, no? Domani sono a Londra col Napoli. Che vai a fare? Arsenal Napoli. Such a great game for a Champions League. L'Arsenal è mica male, eh? No, l'Arsenal non male, ha perso una partita, poi le ha vinte tutte. Wenger un mese e mezzo fa era praticamente vicino all'esonero, adesso è di nuovo Le Roi Wenger. Facciamo in tempo ancora a fare un salto, guarda un po'. Dai. Giuliano, buongiorno. Eccoci, ciao. Ciao Giuliano. Ciao. Allora, io ieri sono stato al mondiale di ciclismo, sto tornando in questo momento. Devo dire che all'inizio mi ero fatto l'idea che l'Italia avesse fatto la stessa corsa che ha fatto tante altre volte, cioè sempre davanti, portando in carrozza il vincitore di turno. Invece forse abbiamo fatto una buona gara e forse ci mancava uno accanto a Nibali che potesse dargli una mano. C'era Paolini che però è caduto. Sì. Alla fine è andata così. Nell'idea doveva essere Pozzato, che invece ha fatto una brutta corsa. L'idea era Pozzato. Non era proprio per lui. Però che anche gli altri, alla fine gli altri li abbiamo schiantati, perché Cancellara, Silver e gli altri, abbiamo fatto vedere che il circuito era duro. Ma d'altra parte, Giuliano, dai, a Firenze non può che vincere Rui Costa, era scritto nelle stelle, nella legge di numeri. Senti, ci sentiamo. Io guardavo i monumenti ieri, veramente mi sono perso sul ciclismo. Ne sono certo. Ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani. Domani. I will be in London, ci sentiamo domani. Adesso che cosa c'è? Che lanciamo? Il traffico? No. La borsa? Che c'è? C'è soundcheck, grandissimo. Ti danno la multa, non hai studiato il palinsesto. No, ho studiato, 15:20, 16, poi dopo c'è Matteo Caccia. Ma adesso c'è soundcheck, Gegè Telesforo, ciao. Allora, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Hasta luego.